2024 di Enrico Pagliarini. Ci siamo anche questa settimana, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda tutti i venerdì sera, quando inizia il weekend di Radio 24, ma inizia il weekend in generale. In onda anche la domenica tra le 13.30 e le 14, ma come sempre vi consiglio di abbonarvi al nostro servizio podcast, la radio in streaming on demand quando volete. Allora, iniziamo con alcune considerazioni che riguardano le trimestrali conti pubblicati questa settimana da alcune grandi aziende tecnologiche che ci fanno capire abbastanza bene quello che il mondo della tecnologia sta vivendo in questi mesi. Allora, alcuni mercati, quelli che hanno regalato grandi crescite, grandi utili alle società e grandi novità per i consumatori, potremmo dire che sono un po', se non proprio fiacchi, hanno rallentato e le aziende stanno guardando a nuovi mercati, ma senza grandi certezze. Allora, Alphabet, la capogruppo di Google, Intel e Microsoft, ma ho preso queste tre, poi ci sono i conti anche di altre aziende che potrebbero dirci qualche cosa del genere. Allora, i conti di queste aziende hanno, chi per una ragione, chi per un'altra, mancato le previsioni degli analisti. Pur rimanendo aziende con fatturati in crescita utili da fare invidia, devono però inventarsi qualcosa per non rallentare questa crescita. Allora, esistono sicuramente motivi finanziari legati alla dinamica, alcuni dicono, e io sono tra questi, folle della borsa che guarda solo alla crescita, ma esiste anche un problema tecnologico. L'abbiamo accennato in altre puntate di 2024, perché in molti settori si è arrivati ad una maturità che necessariamente rallenta il tasso di adozione dei consumatori, ma anche il tasso di innovazione. E questo per certi versi è un po' naturale, ma è anche un problema, eh? Google sta cercando di accelerare verso altri settori oltre al business principale, quello della ricerca. Lo hanno proprio dichiarato questa settimana i manager di Google, o comunque lo hanno fatto ben intendere, anche se però non ci sono grandi certezze dagli altri business, o comunque non sono nel breve periodo. Intel e Microsoft soffrono per il calo delle vendite dei PC, e questa è una realtà con la quale bisogna fare i conti. Intel in particolare ha anche annunciato un taglio di 12.000 persone in tutto il mondo e va detto e ricordato che l'azienda fattura quasi 14 miliardi di dollari, ne stacca 2 miliardi di utile, quindi conti assolutamente ottimi. E se Intel vende meno processori per computer, non esiste quasi nel settore della telefonia mobile, sta investendo molto nella internet degli oggetti, che per molti è la nuova gallina dalle uova d'oro. Ma sarà proprio così? Lo scopriremo solo vivendo, come si diceva. Iniziamo questa nostra trasmissione, come sempre facciamo, con alcune notizie in breve condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da Mediaset, che ha annunciato che trasmetterà la finale di Champions League del 28 maggio a Milano in Ultra HD o 4K, è la stessa cosa, però si chiama, alcuni la chiamano Ultra HD, altri 4K. Verrà trasmessa sulla piattaforma Premium sul digitale terrestre. Questo annuncio segue quello della Rai, che trasmetterà sempre in 4K 7 partite degli europei di calcio, in questo caso però sulla più agevole piattaforma TV Sat, più agevole per quanto riguarda il broadcaster, perché su satellite c'è molto più spazio e molta più banda rispetto al digitale terrestre. Ovviamente servono televisori adeguati a ricevere questo tipo di trasmissioni, nonché un decoder adeguato. Comunque sui siti di Rai e Mediaset, nonché in una delle recenti trasmissioni di 2024, ci sono tutte le informazioni. James Comey, che è il direttore dell'FBI, ha detto che l'agenzia federale americana ha speso per craccare l'iPhone, per pagare gli hacker che hanno craccato l'iPhone di uno dei terroristi della strage di San Bernardino, più di quanto lui guadagnerà nei prossimi 7 anni e passa, cioè gli anni che gli rimangono da lavorare. I giornalisti della Reuters hanno fatto un calcolo, hanno preso lo stipendio, hanno fatto il calcolo e quindi hanno scoperto che l'FBI ha speso circa 1,3 milioni di dollari. Ricordiamo che l'FBI non ha trovato nulla di interessante ai fini dell'indagine, però non potevano mica saperlo prima. Digital News. Parliamo di automobili, mentre un altro manager di Tesla è passato ad Apple per il misterioso progetto che potrebbe portare alla produzione di un'automobile, ma chi lo sa, forse. Volvo ha annunciato che darà un'accelerata verso i sistemi di assistenza alla guida sulle proprie auto e verso la propulsione elettrica. Lo stanno facendo un po' tutti i produttori. Fra 3 anni arriverà il primo modello completamente elettrico di Volvo e entro il 2025 tutti i modelli avranno una versione elettrica o ibrida plug-in. Digital News. YouTube ha annunciato la possibilità di trasmettere attraverso la piattaforma video più importante al mondo video a 360 gradi in diretta streaming. Video a 360 gradi si potevano già pubblicare, ma adesso si può fare anche la diretta, pensate un po', Bisogna avere una videocamera naturalmente in grado di riprendere a 360 gradi, software adeguati, ma è sicuramente un passo importante verso questa nuova era del video, che è un po' legata anche con la realtà virtuale. È disponibile anche, assieme ai video a 360, la funzione video, la funzione audio spaziale, che quindi è molto più immersiva rispetto all'audio normale. Digital News. Chiudiamo con una notizia che riguarda il solo mercato americano, ma ci fa ben capire il livello di competizione del settore video. Amazon Prime Video, che è l'offerta di video in streaming on demand di Amazon, che finora era inserita nel pacchetto Prime di Amazon, che negli Stati Uniti è molto diverso da quello che c'è in Italia, costa $99 all'anno ed è un pacchetto con tanti tanti servizi. Allora bene, questa offerta video è stata svincolata e viene ora proposta $9 al mese, 8,99, ovvero $1 in meno del corrispondente piano di Netflix, quindi una battaglia, un attacco diretto a Netflix che diventa sempre più grande, si espande sempre di più, ma soprattutto negli Stati Uniti c'è una forte competizione con altre piattaforme, in primis quella di Amazon. Dopo un anno di indagini, l'antitrust europeo, cioè la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, è arrivato o arrivata, dipende se parliamo di antitrust o la Direzione Generale o la Commissione Europea, alla conclusione che Google abbia messo in atto una strategia volta a preservare e a rafforzare la propria posizione dominante nel settore delle ricerche su internet. E sul fatto che Google abbia una posizione dominante nella search, come si dice, nelle ricerche su internet, non ci sono dubbi. Bisogna vedere se poi quello che viene contestato, cioè l'abuso della posizione dominante, esiste ed è concreto. Allora, tutto ciò facendo leva su un altro settore dove la quota di mercato di Google è molto forte, si aggira in Europa attorno all'80%, ci sono varie ricerche, comunque in Italia siamo grosso modo a questa cifra, che è quello degli smartphone con sistema operativo Android. Allora, Android, ricordiamo che è un software sviluppato da Google, un sistema operativo. Google lo aveva acquistato nel 2005 da una società che si chiamava proprio Android Inc., fondata un paio di anni prima, nel 2003, a Palo Alto, in California, fra gli altri Andrew Rubin, che è stato un manager di Google molto importante fino all'autunno del 2014. Adesso si è messo a fare altro, sostanzialmente venture capitalist, andando a cercare startup che propongano qualcosa di nuovo. Ma lasciamo la storia, torniamo all'oggi. Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it. La gente non se ne rende conto, ma quando compra un nuovo telefono con Android, lo accende e lo configura la prima volta, gli vengono chieste delle cose, come per esempio di creare un account, che è un account Google, e quando lo entra sul nuovo smartphone vede in alto una bella barra di ricerca che cerca su Google e vede una cartella di applicazioni sullo home screen. Questo vale per Samsung, per LG, per HTC, per tutti i produttori di smartphone in Europa, ma anche nel mondo. E perché questo succede? Perché lo chiede Google. Tu firmi un accordo con Google per avere queste applicazioni e loro non solo vengono installate sul dispositivo, ma hanno anche posizioni specifiche, quindi la ricerca deve essere sulla home, la cartella deve essere lì con tutte le app, quelle note, quindi il Play Store, Gmail, il browser Chrome, eccetera, eccetera. Quando un produttore di telefoni vuole preinstallare in modo particolare il Play Store, cioè il negozio da cui si scaricano le applicazioni che è il corrispondente dell'App Store di Amazon, insomma degli store che sono proprio dei negozi dove si possono acquistare o prelevare, installare, se sono gratuite senza pagare nulla, le applicazioni, e oggi viviamo di applicazioni. Allora, se un produttore di telefoni vuole installare il Play Store, è obbligato a prendersi anche le altre app dei servizi Google, cioè il motore di ricerca e Chrome in primis, ma anche tutte le altre che ci ricordava Roberto Pezzali. Allora, questo vincolo, secondo Bruxelles, che andrebbe contro le norme europee, metterebbe fuori gioco i motori di ricerca alternativi, frenerebbe l'innovazione e danneggerebbe dunque i consumatori. La commissione, che ha scritto a Google in forma preliminare, poi a questo punto ci sarà tutto un invio e una controrisposta da parte di Google e della Commissione europea, la commissione accusa inoltre Google di avere pagato alcuni dei principali produttori di smartphone affinché preinstallassero Google Search. Ma continuiamo a parlare di Android, perché si scoprono cose interessanti che probabilmente non tutti noi sapevamo o sappiamo ancora oggi. Io molte le ho scoperte proprio in questi giorni. Android è open source, nel senso che c'è proprio un repository, si chiama, su internet, che un qualsiasi utente, azienda, può scaricare, compilare e installare su uno smartphone. Cioè io e te potremmo fare domattina uno smartphone che utilizza Android. Assolutamente sì. Esiste un, diciamo, un branch, si chiama, di questo sistema operativo qua, è open source, lo possiamo prendere, modificare, possiamo chiamarlo per esempio Radio 24oid. Paradossalmente avremmo il nostro sistema operativo Android. Ma il problema è che non è Android, la gente parla di Android, ma non è Android che rende il sistema operativo così interessante. È proprio quel pacchetto di app Google, il Play Store soprattutto, perché dove noi scarichiamo tutte le app, WhatsApp, Facebook, così non ci sarebbero se non ci fosse installato il Play Store. Lo stesso Gmail, il browser Chrome, YouTube per far vedere i video ai bambini spesso. Cioè, in un ipotetico Radio 24 Android, un telefono con questo sistema operativo open source che noi ci possiamo personalizzare, non avremmo tutte queste applicazioni. No, assolutamente no, saremmo costretti a, diciamo, trovare soluzioni alternative, che è un po' quello che l'unico produttore che ha affrontato questa strada, che ha preso Android, l'ha personalizzato su piacimento, è stato Amazon. Amazon sui suoi tablet Fire ha creato Fire OS, che non è altro che Android. Un utente che li usa se ne accorge, però si è fatta il suo Play Store, che si chiama App Store di Amazon, appunto Amazon App Store, si è fatta delle alternative alle applicazioni di base al browser, si chiama Silky il suo, e diciamo con la potenza di Amazon è riuscito a fare qualcosa del genere. Ma è chiaro che i produttori non lo possono fare. Non lo possono fare perché perdono appunto questa possibilità. Cioè avrebbero un sistema operativo senza le applicazioni. Sì, e questo infatti è quello il problema che l'Unione Europea evidenzia, quindi quello che la policy anti-fragmentation si chiama di Google. Praticamente tu non puoi avere questo pacchetto di app se vai a modificare Android. Quindi se tu vuoi Android te lo pigli così com'è e puoi firmare la licenza e avere le app. Se tu solamente lo modifichi non hai più le app. Android è vittima del suo successo. Google ha fatto delle app fantastiche, la gente usa quelle app lì non perché sono quelle più belle, cioè alla fine, non solo perché ci sono, ma perché sono le più belle effettivamente. Uno che ha usato Google Mail la trova comodo come client di mail, ce ne sono altri, però alla fine l'ecosistema Google funziona. Se ricordiamo un po' quello che era successo con Microsoft ai tempi, no? Che l'Unione Europea ha chiesto di mettere il ballot screen per scegliere il browser, c'era Internet Explorer, poi c'era Chrome, Firefox, quindi c'erano delle alternative, tant'è che ha prevalso alla fine Chrome, che era l'alternativa quella più valida. Oggi, se dovessero fare un ragionamento di questo tipo qua, non ci sarebbero alternative, perché forse sui browser sì, qualcosa c'è, ma sullo store d'applicazioni l'unico pacchetto di valore è il negozio delle applicazioni. Potrebbe essere l'unico sulle quali si riesce a contrattare, dicendo: ma fate sì che un produttore possa comunque mettere il negozio di applicazioni senza l'obbligo di avere anche il browser, soprattutto la ricerca. Una soluzione si potrebbe trovare appunto accordandosi su questa applicazione specifica, che è quella che forse vale più di tutto nel pacchetto, che è appunto lo store di applicazioni. Quindi, ricapitolando molto brevemente, secondo l'accusa il business principale di Google, che è quello delle ricerche, ricordiamo che Google fattura miliardi di dollari vendendo la pubblicità sul motore di ricerca, allora questo business viene rafforzato da questi accordi che Google riesce, con un libero scambio di mercato, riesce a far firmare ai produttori di telefoni che in qualche modo non possono più far senza di Google, perché è diventato così pervasivo, ha fatto queste applicazioni così ben funzionanti che i produttori sono quasi vittime di questo grande successo. In effetti, se ci pensate, le vendite di Samsung, Huawei, LG, HTC, e parliamo di tutti i produttori del mondo Android, fanno crescere forse più il business di Google che il loro, che hanno oramai marginalità sui telefoni sempre più basse, con una competizione molto molto agguerrita. Allora, a questo punto ci vorranno mesi, forse anni, a trovare una soluzione. Ricordiamo tra l'altro che l'Unione Europea, la Commissione Europea in particolare, ha un'altra procedura attiva nei confronti di Google nel settore delle ricerche, una questione che va avanti da parecchio tempo e sulla quale non si è ancora trovata una soluzione. A questo punto, dicevo, Google, la società, dovrà replicare ufficialmente a Bruxelles, rischia una multa da oltre 7 miliardi di euro. La società naturalmente spiega che gli accordi con i partner sono volontari e chiunque può usare Android senza Google, come ad esempio ha fatto, lo ricordavamo poco fa, Amazon con il proprio Fire OS. Devo anche dire che Amazon non ha fatto un grande successo con questo sistema operativo e tutta la linea dei propri Fire, soprattutto con lo smartphone. Nello smartphone non ha assolutamente centrato l'obiettivo. Ci sono anche altri produttori che hanno utilizzato, che utilizzano Android nelle versioni non ufficiali. Xianogen, ad esempio, è una delle versioni non ufficiali, una delle derive, delle derivate di Android. Ad esempio la spagnola BQ è un buon esempio, perché BQ utilizza la versione standard ufficiale, chiamiamola così, di Android, quindi con le applicazioni di Google, ma anche la Xianogen su, ovviamente, prodotti che sono di nicchia, un po' per smanettoni, però è sicuramente molto interessante. Di questo ho parlato per capire soprattutto le differenze che ci sono tra la versione standard e la versione invece non ufficiale, con Andrea Calcagni, che è il country manager per l'Italia di questa azienda, appunto, che si chiama BQ. Ma guarda, allora, le differenze sostanziali sono che con la versione Xianogen dell'Aquarix X5 tu hai la possibilità di fare delle personalizzazioni che non vanno solo a interessare lo screensaver piuttosto che il desktop del telefono, ma ci sono tantissime customizzazioni, la possibilità veramente di apportare delle modifiche, di andare a cambiare delle icone, piuttosto che avere la possibilità proprio di andare a interagire con una personalizzazione di quelli che sono i controlli, i comandi. Quindi hai la possibilità veramente di andare a decidere quello che succederà quando tu fai un touch dello schermo, piuttosto che lo schermo venga toccato due volte, o addirittura con il comando, con il tap prolungato sullo schermo. Quindi le personalizzazioni sono molte, interessano le feature, quindi le caratteristiche del prodotto, caratteristiche, sì. Esatto, del prodotto e del sistema operativo. Interessano anche la privacy, quindi la possibilità di avere un prodotto ancora più sicuro nell'interazione con le applicazioni, quindi decidere cosa può essere condiviso o meno dall'utente quando utilizza una determinata applicazione. Comunque, sostanzialmente, avete capito, con un sistema operativo non ufficiale il produttore del terminale può andare a creare delle personalizzazioni. C'è però un risvolto negativo della medaglia, che la versione ufficiale è una versione standard molto diffusa, quindi un consumatore che cambia telefono e passa da uno smartphone con la versione ufficiale di Android ad un altro ha tutta una serie di procedure, quelle con cui appunto si fanno le varie cose, si apre un'app oppure si fa un copia e incolla, si fanno tante cose che sono sostanzialmente le stesse, se non molto simili. Con versioni che invece sono fortemente personalizzate, tutto ciò si perde, che è un po' uno dei motivi per cui i grandi sistemi operativi che si affermano sono quelli standard supportati dalle grandi aziende. Un po' il motivo per cui si è affermato Windows, non è l'unico motivo, ma è sicuramente uno dei motivi per cui si è affermato Windows e non Linux, che dietro non ha un'azienda che supporta anche i produttori di terminali nello sviluppo e nel supporto continuo dell'applicazione. Questo è 2024, siete all'ascolto della versione podcast del nostro programma. Adesso cambiamo argomento. Adesso cambiamo argomento, anche se in qualche modo faremo riferimento, o comunque c'entra in qualche modo sempre l'Unione Europea, perché siamo in attesa, anche se pare che l'attesa sia oramai molto breve, sia terminata questa attesa, comunque stia per terminare, siamo in attesa dell'approvazione da parte di Bruxelles del piano banda larga, di cui tanto si è parlato in vari modi, in varie occasioni. Potrebbe arrivare la prossima settimana, erano stati annunciati per il 29 di aprile i primi bandi per mettere a disposizione risorse pubbliche, denaro pubblico, per far sì che le aziende di telecomunicazioni possano accedere a questi denari, a questi soldi, per andare a mettere fibra ottica nelle zone a fallimento di mercato. Non è detto che siano le zone più povere dell'Italia, ma sicuramente sono zone poco popolate, dove la densità delle abitazioni, anche delle aziende e degli uffici, è molto bassa, e quindi andare a fare un'infrastruttura è molto costoso per un operatore. Attendiamo, scopriremo la prossima settimana se arriverà sia il via dell'Unione Europea e anche questi bandi, e quindi diciamo che questo progetto potrebbe partire. Però c'è un tassello molto importante: Enel Open Fiber, di cui abbiamo parlato varie volte a 2024, ha annunciato con una sorta di benedizione del governo un impegno e si è candidata per diventare un operatore neutrale, e c'è molto bisogno nel nostro paese che ci sia un operatore neutrale nel mondo delle telecomunicazioni, che metta a disposizione un'infrastruttura a tutti gli operatori che poi vanno a offrire servizi a cittadini ed aziende. Allora, facciamo il punto della situazione con Simone Bonannini, che è l'amministratore delegato di Interroute Italia, che da molto tempo, lo potete andare a riascoltare nell'archivio di 2024, propone una cosa che più o meno si sta avverando oggi, una infrastruttura pubblica e neutrale proprio per il bene di cittadini, pubblica amministrazione e aziende, per risolvere tutti i problemi che spesso commentiamo anche a 2024, i nostri ritardi sia di infrastruttura sia di utilizzo di internet. Bonannini, bentornato a 2024. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Ma perché c'è proprio così tanto bisogno di una rete pubblica? Ma è come tu hai accennato, io ho sempre desiderato che fosse pubblica per evitare che, come si suol dire, l'arbitro facesse anche il giocatore e si verificassero delle distorsioni sul mercato che sono in questi anni state sotto gli occhi di tutti, che hanno portato poi ad un non ottimale sviluppo e diffusione della ultra larga banda in Italia. Oggi, con l'iniziativa che tu hai precedentemente accennato di Enel, con la società di scopo costituita Enel Open Fiber, fatemi dire, non sono contentissimo perché non è una società 100% pubblica, ma sono estremamente contento per il fatto che comunque si connoterà come operatore neutrale, e quindi si limiterà a fornire infrastruttura a tutti gli altri soggetti che poi competeranno sul servizio, e appunto, non essendo un soggetto pubblico, potrà operare anche nelle zone cosiddette dove c'è mercato, e quindi non soltanto nelle zone a fallimento di mercato. Credo che sia un inizio, un ottimo inizio, quindi il mio applauso al governo, devo dire il mio applauso a Raffaele Tiscar, che è la persona a Palazzo Chigi che probabilmente ha più spinto in questa direzione. Penso che Enel sia un elemento di un piano più ampio che a mio avviso deve includere anche Metroweb e sicuramente Infratel, la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, lo scenario che si sta delineando sarà grosso modo così: nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, come dicevo poco fa, la rete sarà pubblica, indipendentemente da chi la costruirà con risorse dello Stato, ma la proprietà di questa rete rimarrà nelle mani dello Stato. In tutte le altre zone del paese, le città, le cittadine, insomma, dove c'è molta densità e dove si può fare competizione, dove c'è mercato, e lì saranno gli operatori a giocarsela e a vedere chi è il più bravo, il più forte, anche se effettivamente Enel si è mostrata molto interessata a queste zone, quindi anche in questo caso si candida a diventare un operatore rilevante in queste zone. È soddisfacente? Siamo sicuri che vada bene così per diventare un paese da serie A per la banda larga? Allora, io credo che nelle zone dove c'è mercato, se l'iniziativa di Enel va avanti così come descritta, alla fine non ci sarà una grossa competizione per la realizzazione dell'infrastruttura. Come ho sempre detto anche ai tuoi microfoni in passato, gli economisti dimostrano che più di una rete in fibra non può coesistere, ed è per questo che ho sempre sostenuto che dovesse essere pubblica o quantomeno di una società a governance pubblica. Quindi, a mio avviso, se Enel, con Enel Open Fiber, inizierà il deployment del progetto che ha descritto, lo sviluppo del progetto che ha previsto, dubito che altri si metteranno a fare lo stesso lavoro. Anzi, altri operatori, probabilmente il Telecom Italia stessa, deciderà finalmente di utilizzare le infrastrutture messe a disposizione a parità di condizioni da questo soggetto e si concentrerà, come pare il nuovo azionista Bolloré sta sostanzialmente imponendo con la sua nuova linea guida, e si concentrerà sui servizi, e quindi farà la media company. Non gli conviene più investire in infrastruttura, è bene che lo faccia qualcun altro. Quindi l'importante è che questo soggetto sia neutrale. Ora, a mio avviso, l'altro aspetto estremamente importante è evitare lo spreco di risorse pubbliche, di denaro, e quindi servirà un coordinamento degli investimenti. Voglio sperare che Enel, che appunto va a lavorare nelle zone dove c'è mercato, eviti di investire magari nelle stesse aree dove già ha investito Metroweb, di nuovo azienda che alla fine fa capo a Cassa Depositi e Prestiti. Sono abbastanza certo che Enel tenterà di acquisire Metroweb, perché Metroweb da sola ha dimostrato di non riuscire e di non avere la forza per portare avanti il piano che ha fatto a Milano, a Bologna o a Genova, anche in altre città. Quindi, a mio avviso, una naturale, corretta e logica evoluzione potrebbe essere Enel Open Fiber che acquisisce Metroweb, e a questo punto poi queste due società che operano nelle aree dove c'è mercato lavoreranno di concerto con Infratel, la società del Ministero dello Sviluppo Economico, che invece opererà nelle aree dove non c'è mercato per realizzare l'infrastruttura. Dopodiché Enel Open Fiber, speriamo insieme a Metroweb, quindi questa nuova costituenda società, potrà anche addirittura partecipare ai bandi per gestire la rete che Infratel ha realizzato nelle aree a fallimento di mercato. A questo punto avremo un soggetto pressoché unico su tutto il territorio nazionale, o comunque su gran parte del territorio nazionale, che può finalmente operare in maniera neutrale per mettere a disposizione della fibra spenta di tutti gli operatori che poi vorranno competere sui servizi. Riprendiamo, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 è radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter, quindi potete utilizzare anche quei canali per interagire con noi. Diamo il meglio di noi stessi via podcast, potete scaricare 2024 attraverso questo sistema fantastico. Il podcast è il futuro della radio, la radio on demand quando volete. Tra l'altro, con 2024 trovate tutte le nostre interviste in versione integrale. Dunque, tra poco parliamo di Microsoft che ha presentato il Surface Hub. Che cos'è? Lo scopriamo tra poco. Adesso invece concludiamo con Simone Bonannini che ci sta facendo il punto, anche se la cosa è molto molto più complicata di come la stiamo facendo, sul piano banda larga. Allora volevo fare una domanda su uno dei tormentoni di questo tema. Allora, ci sono due grandi partiti che si sono scontrati fino a ieri, oggi oramai insomma molti hanno cambiato idea, ma ci sono ancora molte persone che dicono: ma quello che alcuni operatori di telecomunicazioni stanno facendo in questi tempi, in questi mesi, cioè portare la fibra fino al cabinet, agli armadi di strada, poi da lì prosegue il vecchissimo doppino di rame. Molti operatori la chiamano fibra ottica, ma in realtà io dico che è fibra fino ad un certo punto, nel vero senso della parola, ed è anche un po' una truffa chiamarla fibra ottica, perché non è vera fibra ottica. A casa arriva ancora il doppino di rame, però visto che ci sono molti che mi scrivono e dicono: ma con questa tecnologia si riescono a raggiungere velocità di 50-100 megabits, non potrebbe essere sufficiente, anzi molti dicono è sufficiente, non rompete le scatole con il fiber to the home, la fibra fino all'appartamento, la fibra fino agli uffici, alle aziende, che è poi il progetto che sta prendendo forma con questo progetto di Enel Open Fiber. Allora, domanda a Simone Bonannini, che è sempre stato un sostenitore del fiber to the home, che cosa dire? Allora, continuo ad essere sostenitore della fibra fino alla base del building o addirittura in casa, come tu hai detto all'inizio. La mia obiezione è sempre la stessa: i dati degli ultimi 20 anni dimostrano il tipo di livello di crescita della richiesta di banda a casa di ciascuno di noi, e quindi nel giro di 5-6 anni il rame non sarà più sufficiente. Per un primo motivo che tutti dimenticano: i 100 megabit del fiber to the cab sono ancora in downstream, quindi dalla rete verso l'utente, non c'è simmetricità, manca il dato su quello che è l'upstream. Prima di tutto, quindi, considerato che oggi tutti noi siamo produttori di contenuti e vogliamo mettere i nostri contenuti nel cloud, è estremamente fondamentale anche l'upstream. Peraltro le videocomunicazioni che facciamo con FaceTime, con Skype o altre robe ad alta definizione richiedono assolutamente la simmetricità, non c'è nulla di più simmetrico di una videocomunicazione. E tutti i ben pensanti del fiber to the cab non dicono mai quant'è la capacità in upstream che si può raggiungere. In più, questi sono dati che spesso si ottengono in laboratorio o magari anche in campo, ma su un numero limitato di clienti contemporanei. Sarei interessato a vedere con la simultaneità di molti clienti se si riesce a rispettare queste performance. Concludo dicendo che quando qualche anno fa dicevamo che ogni 7 anni si decuplica la banda richiesta a casa di ciascuno di noi, qualcuno ci derideva. Oggi un articolo sul Corriere delle Comunicazioni, c'è qualcuno che di ben più blasonato del sottoscritto che dice che nel 2020 le stime del traffico internet mondiale sono di 8 volte superiori a quelle attuali, quindi significa che qualcuno questo traffico lo fa, lo utilizza, e probabilmente da qui al 2020 le necessità non dico che saranno di 8 volte superiori, ma di qualche volta, fossero anche 4-5 di sicuro. E a questo punto mi chiedo, questi 100 megabit, visto che dobbiamo fare degli investimenti per il futuro del paese, per i prossimi 15 o 20 anni, se non valga la pena di pensare a qualcosa di più di 100 megabit. Un'ultima domanda che riguarda tutto quel sottobosco, chiamiamolo così, o comunque tutta quella lista di ex municipalizzate, società pubbliche che hanno negli anni, negli ultimi 20 anni, posato fibra, e purtroppo o per fortuna ce ne sono tantissime e ci sono tantissimi chilometri di fibra ottica posata, purtroppo, e questa cosa mi fa andare in bestia e io mi lamento sempre, ed è una responsabilità di molti amministratori locali, purtroppo o sottoutilizzata o per niente utilizzata. Ci sono un sacco di chilometri di fibra e nessuno la utilizza, oppure la utilizzano quattro pubbliche amministrazioni in croce, un po' come se si fossero costruite l'autostrada del sole tutta per loro. È una roba vergognosa. Allora, a parte insomma la mia protesta che continuo a fare, e bisogna puntare il dito contro quelle amministrazioni locali che hanno investito soldi in teoria per il bene del paese, ma poi se queste cose non vengono utilizzate sono soldi buttati. Allora, secondo Bonannini, che fine faranno queste municipalizzate, tutte le poltrone che vengono occupate indebitamente da questi amministratori che non capiscono nulla di telecomunicazioni? Poi mi calmo. Secondo me Enel Open Fiber deve trovare un accordo con Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisizione di Metroweb. Questo nuovo soggetto, come ho detto, dovrà lavorare di concerto con Infratel. Probabilmente in una fase più avanti io mi auspico che di nuovo Infratel e quindi Enel Open Fiber trovino una modalità per costituire loro stesse una nuova società, quindi del concambio azionario, che prevederà quindi una governance pubblica, ma a questo punto anche il socio privato Enel o altri soci privati, purché non siano operatori di telecomunicazioni. Questa società potrebbe poi fare da aggregatore per tutte quelle municipalizzate, quindi far entrare con apporto di asset tutte quelle municipalizzate che, come tu dicevi prima, negli anni hanno realizzato infrastrutture atte alla posa di fibra ottica o addirittura hanno posato fibra ottica. A questo punto avremmo un'unica società su tutto il territorio nazionale a governance pubblica, disponibile per essere quotata in parte in borsa o addirittura per far entrare fondi infrastrutturali italiani o stranieri. Sostanzialmente un'analoga di Terna nelle telecomunicazioni. Questo credo che sia quello che deve essere fatto. Il primo passo importante è l'acquisizione da parte di Enel Open Fiber di Metroweb. Voglio sperare che si trovino d'accordo sul valore di Metroweb al più presto possibile. Secondo me il valore della società è dell'ordine dei 600-650 milioni. Spero che in Cassa Depositi e Prestiti capiscano, perché non credo che l'azienda sarà pagata completamente in denaro, probabilmente ci sarà uno scambio azionario, quindi per Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere interessante avere una partecipazione in un qualcosa di molto più grande, ma più potenzialmente redditizio nel futuro, che una cosa più piccola che, come abbiamo visto in questi anni, non ha possibilità di espandersi perché non ha la forza per poter andare su tutto il territorio nazionale. Aggiungo una domanda sulle reti mobili, visto che è un tema che è collegato, però come è collegato l'aumento della capacità delle reti mobili? Pensiamo a tutto quello che si sta facendo per il 5G, che è molto vicino, perché si parla del 2020, il 2020 insomma è dietro l'angolo, pensando che poi costruire le infrastrutture non è un gioco di mesi ma di anni. Come le due cose sono collegate? Assolutamente collegate, perché il 5G prevede una grandezza della radiocella molto limitata. Alla base di quella cella, quindi alla base dell'antenna, del traliccio dove c'è l'antenna, ci deve per forza essere fibra ottica. Allora, se alla fine io avrò quelle antenne con una capillarità tale che mi portano la fibra ottica ad essere a 300 o 400 metri da ogni edificio, praticamente ho di nuovo realizzato un'infrastruttura in fibra ottica pervasiva. Quindi il 5G, che è fondamentale perché i dati in mobilità sono fondamentali, non ci facciamo ingannare, quella mobilità è una mobilità alla fine abbastanza limitata, perché appunto il numero di celle, in particolare nelle aree densamente abitate, quindi nelle città, aumenterà notevolmente, questo a vantaggio anche di una riduzione delle emissioni radioelettriche, ma alla base di quelle celle dovrà esserci la fibra, e sostanzialmente per portarcela ci accorgeremo che passeremo di fronte a tutti gli edifici in ogni città. Quindi perché non fare il fiber to the building? Molto bene, grazie a Simone Bonannini, a presto, buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Questa settimana Microsoft ha lanciato in Italia il Surface Hub. Beh, c'è una lunga lista di cose, di terminali di Microsoft che si chiamano Surface. Questa però è una cosa un po' diversa. Ci siamo fatti raccontare di che cosa si tratta da Evita Barra, che è la responsabile Windows and Devices di Microsoft Italia. La Surface Hub è il più ampio schermo che oggi utilizza Windows 10. Il suo cuore di utilizzo è quello della collaborazione in un ambiente di lavoro moderno, dove si esalta il potere di contributo di diversi membri di un team, di una squadra, quindi il lavoro di gruppo. Sfrutta Windows 10, sfrutta le Universal App come Skype for Business, come OneDrive, come Office, e dà l'accesso a tutta una serie invece di applicazioni business specializzate, fatte su misura per essere sfruttate su uno schermo così grande. Grande quanto? È grande o 55 pollici o 84 pollici. È dotato dei processori Intel Core di ultima generazione. Sul 55 abbiamo un i5, sull'84 abbiamo un i7. Su entrambi Windows 10 la versione da 84 pollici ha un 4K, quindi anche contenuti di altissima e di ultimissima generazione. Adesso io semplifico, poi tu spieghi qualcosa in più. È di fatto una grande lavagna, immaginiamo questo 84 pollici, grande come una lavagna, dove io posso scrivere, perché è un schermo touch, quindi io posso scrivere con una penna che è in dotazione, posso anche fare naturalmente presentazioni, far vedere PowerPoint, eccetera, eccetera. Sì, esattamente. Allora, alla fine è uno schermo touch molto grande, si presta quindi a ricevere contributi attraverso la penna, contributi di più persone, tra l'altro, che possono contribuire per esempio ad un progetto creativo, prendendo delle annotazioni, prendendo delle note, degli spunti, collegando altri contenuti multimediali, con delle applicazioni che abilitano per esempio il brainstorming delle idee. Ci sono delle applicazioni sullo store che consentono anche di votare i progetti. Sappiamo quanto è difficile oggi in un'azienda prendere delle decisioni. Abbiamo un'applicazione per il voting dei progetti proprio disponibile per Surface Hub, e nel momento in cui proprio io stacco la penna mi rendo conto subito di avere un grande strumento di lavoro che ha degli ampi spazi per poter visualizzare o contribuire in maniera più ampia e più approfondita di quello che oggi uno schermo di un notebook o di un tablet ovviamente danno la possibilità all'interno di una sala riunioni. Uno potrebbe dire: ma lo faccio col proiettore, però il proiettore non è touch. Non è touch, ovviamente il proiettore non abilita tutti quegli strumenti di condivisione e collaborazione che invece Surface è nato per fare. L'avete già fatto il listino? Il listino di riferimento esiste, nella versione da 55 pollici il prezzo è di pochissimo superiore ai 10.000 euro, nella versione da 84 il prezzo è intorno ai 25.000 euro. Per un consumatore finale effettivamente lo shock è elevato, per un'azienda che oggi deve dotarsi di tutta una serie di pezzi per fare le cose che Surface Hub consente di fare. Abbiamo una ricerca di Forrester su alcune aziende che l'hanno già testato, in realtà alla fine si ottiene maggiore produttività ed efficienza e un risparmio di costi. Beh, sicuramente è un touch molto reattivo, sul mercato non esistono cose del genere, per alcune funzioni è un prodotto sicuramente molto indovinato. Non state ad ascoltare le ricerche che vengono fatte, che siano di Forrester o di qualcun altro, ma sono ricerche pagate dall'azienda, quindi evidentemente dicono cose utili alla vendita. Ragionate con il vostro cervello e decidete se questo può fare al caso vostro oppure no, visto tecnici che ad esempio stavano già pensando a soluzioni e avevano già in mente una soluzione, ragionando col loro cervello, sempre usare il cervello. Dunque, Microsoft ha lanciato il Surface Hub durante il forum che ha organizzato questa settimana a Milano per parlare di tante cose, di cloud, di Internet of Things, della Internet degli oggetti e di come alcune aziende hanno utilizzato queste tecnologie, le tecnologie oggi sul mercato, per trasformare quello che fanno oppure per inventarsi cose nuove. Iniziamo da una bella esperienza di Fameccanica. Roberto Lemme è il direttore Customer Service di Fameccanica. Fameccanica è un'azienda leader che produce macchine per la produzione di assorbenti e pannolini per bambini ed è leader mondiale in questo settore industriale. Quindi i pannolini, ad esempio, che molti acquistano sono molto probabilmente prodotti con le vostre macchine? Sì, la probabilità è molto alta. In tutto il mondo? In tutto il mondo, sì. Abbiamo 180 clienti che sono sparsi nei 5 continenti. Senta, voi avete innovato, state innovando, state facendo un progetto molto interessante che prevede l'uso di varie tecnologie, anche varie modalità con cui applicate queste tecnologie. Sì, il progetto si chiama Easy Life. Il nome ispira il fatto che Fameccanica vuole lavorare per rendere facile la vita dei propri clienti. E questo progetto è un progetto di servizio che coniuga la rivoluzione digitale con il know-how di Fameccanica. L'intento è quello di creare un nuovo modo innovativo per supervisionare gli impianti, per fare la manutenzione, per accedere alla documentazione e accedere ai servizi, lavorando sempre in collaborazione con Fameccanica. Quindi voi producete la macchina, vendete la macchina al vostro cliente magari dall'altra parte del mondo per produrre pannolini, assorbenti, eccetera, eccetera. E questa tecnologia a cosa serve nel concreto e soprattutto come funziona? Serve ad aiutare il cliente nella gestione quotidiana della macchina, risolvendo tutta una serie di problemi che viceversa avrebbero richiesto degli investimenti molto importanti da parte del cliente stesso. E come lo fate questo? Con cloud, sensori, Internet of Things? Che cosa avete utilizzato? La nostra è un'applicazione Internet of Things perché le nostre macchine sono connesse ad Internet. Abbiamo creato un'interfaccia che è presente sulla macchina in grado di leggere tutti i dati che il nostro PLC, che è il controllore macchina, acquisisce e invia questi dati al cloud. Nel cloud questi dati vengono elaborati e presentati al management tramite delle dashboard che sono sviluppate sulla tecnologia CRM di Microsoft. E che cosa dicono queste informazioni? Dicono per esempio qual è l'efficienza degli impianti, quali sono le opportunità di miglioramento per quanto riguarda gli scarti, quali sono le fermate. Dicono che per esempio bisogna fare della manutenzione per mantenere l'impianto efficiente e quindi forniscono informazioni. E rispetto a prima, che cosa è stato migliorato? Quali sono le cose principali che sono state migliorate? La tecnologia cloud consente di accedere a questo sistema senza nessun dispositivo con un programma installato sopra. Quindi basta avere un computer connesso a internet ed è possibile accedere a questo software. Quindi la possibilità di diffondere l'informazione fra tutte le persone che devono avere le informazioni, ovunque essi siano, con qualsiasi dispositivo, è una forte innovazione. L'altra innovazione è il tentativo di creare una collaborazione fra cliente e fornitore sulla base di dati condivisi, che consentono quindi di unire le competenze per poter sviluppare ancora meglio la tecnologia e quindi ridurre i costi, migliorare la qualità, il servizio e così via. Quindi voi potete accedere a questi dati? Sì, noi possiamo accedere a questi dati. Cosa che prima non succedeva? No. Quindi fate analisi, elaborazione di dati su questo? Esatto, sì. Perfetto. Prima di parlare di un'altra esperienza, fra poco sentiremo quello che ha realizzato Costa Crociere, sentiamo quello che invece mi ha detto Andrea Cardillo, che è il direttore Cloud Enterprise di Microsoft Italia, sempre durante questo forum organizzato a Milano. Ciò che l'industria italiana e anche gli enti pubblici oggi possono sicuramente abbracciare, senza avere particolari infrastrutture dedicate in casa propria, è la possibilità di collegare oggetti, che siano oggetti collegati alle persone o collegati alle cose, collegati agli strumenti, ai tool, alle macchine che producono, e possono spedire messaggi, sul cloud. Questi messaggi possono essere messaggi futili o messaggi importantissimi. Le macchine del cloud raccolgono, l'uomo può semplicemente spostare la scelta delle proprie azioni verso le macchine, quindi può istruire le macchine nel tempo e può già oggi essere in grado di ottimizzare il proprio tempo, cioè non deve guardare il singolo bit, può invece guardare al quadro più generale e prendere decisioni. Internet of Things, quindi i sensori fondamentalmente e il cloud non sono necessariamente collegati, però voi li collegate, giusto? Esattamente. In realtà Internet of Things è fatto da things, cioè cose che mandano dati, da persone che mandano dati, da smartphone che mandano e ricevono dati, e poi da un cloud, che fondamentalmente vuol dire delle infrastrutture centralizzate che possono raccogliere questi messaggi e, adeguatamente istruiti, possono portare un beneficio a chiunque. Abbiamo visto per esempio Famecanica, abbiamo appena presentato qui al Microsoft Forum, e l'azienda Famecanica cosa fa? Produce macchinari che vengono fondamentalmente a cui vengono inseriti dei sensori. Questi sensori producono dati, i dati tramite internet finiscono sul cloud, il cloud li elabora e li restituisce a, per esempio, ai responsabili della produzione piuttosto che ai clienti stessi, per fornire informazioni e per prendere, come le accennavo prima, delle decisioni. Noi qui al forum stiamo vedendo dei bellissimi casi, molto interessanti, anche molto affascinanti, che fanno capire come la tecnologia possa essere messa al servizio anche della creatività italiana, del genio italiano. Ma se noi guardiamo al panorama più generale, qual è la sua impressione? Lo stanno capendo le aziende? Le aziende hanno un futuro importantissimo su questo tema, perché devono sicuramente poter realizzare che il livello di maturità della tecnologia e delle soluzioni che si basano su questa tecnologia è sicuramente oggi superiore al livello di adozione. Quindi il percorso è un percorso che può guidare queste aziende sia nella scelta di soluzioni già preconfigurate, per esempio da tutti i partner Microsoft che sono qua al Microsoft Forum, ma anche nella comprensione di poter effettivamente effettuare o un cost saving o anche addirittura il miglioramento della vita dei propri dipendenti. Perché le faccio un esempio anche pragmatico: se i tecnici che stanno dietro la manutenzione di un certo macchinario possono sapere in anticipo di dover intervenire, per esempio a Pechino, dove c'è uno stabilimento, pensiamo sia all'ottimizzazione dei costi, perché magari non devo comprare il volo all'ultimo minuto, sia anche alla vita personale di queste persone, che non devono la notte alzarsi e partire per il primo volo per Pechino, sia anche, magari immaginiamo, anche ad un impatto sulle emissioni di anidride carbonica, perché se 5 settimane prima magari qualcuno è andato in Cina di quell'azienda per fare manutenzione, quel giorno avrebbe potuto unirlo a un intervento di manutenzione anticipata, e quindi abbiamo un risparmio economico, ma non è solo quello, è anche un impatto sociale che può essere importantissimo, e le aziende possono trarne un beneficio diretto. Adesso noi stiamo parlando di cloud, di Internet of Things, cose che stanno quasi diventando come dogmi biblici. Anche in questo caso bisogna accendere il cervello, guardare la situazione della propria azienda, e non sempre le soluzioni cloud o anche Internet of Things sono le soluzioni per la propria azienda. Sicuramente sono nuove possibilità molto buone per le piccole e medie aziende quando si devono fare cose anche in modo molto veloce, ed è il caso che ci presenta e ci ha raccontato Franco Carafi, che è il responsabile dei sistemi tecnologici di bordo di Costa Crociere, che non è una piccola azienda, ma aveva una necessità, cioè far presto per aumentare la capacità di un sistema, di un progetto che si chiama Neptune, per connettere e collegare le navi, per trasmettere a terra i dati, tantissimi dati delle navi. Sentiamo questo progetto. Diciamo l'esigenza che avevamo era quella di poter supportare meglio le navi. Per supportare meglio le navi c'erano due necessità, una di tipo applicativo e una di tipo organizzativo. Da un punto di vista organizzativo è stato realizzato un Fleet Operation Center che è proprio 24 ore per 7 a supporto della nave, e quindi abbiamo dotato il Fleet Operation Center di un sistema che consentisse agli operatori di avere tutte le informazioni possibili delle navi in modo da supportarle meglio. Diciamo che a livello di bordo abbiamo installato un software che fa da data collector, quindi sostanzialmente si interfaccia con i device a bordo, questi device forniscono dei dati di base. Questi dati vengono trasferiti via satellite, perché dobbiamo pensare che le navi sono collegate via satellite, vengono quindi mandati a terra e rappresentati su carte nautiche professionali, in modo che gli operatori che sono presenti nel centro possono avere tutte le informazioni sempre real time. Che dati vengono raccolti dalla nave? Beh, vengono raccolti ovviamente il dato di posizione, viene raccolta la velocità, poi ci sono informazioni relative alle condizioni meteo, vento, ci sono le immagini radar, ci sono le immagini webcam. Sostanzialmente abbiamo tutte le informazioni, stiamo parlando di un migliaio di informazioni che raccogliamo per ogni nave. Cioè anche che temperatura c'è a bordo, i motori, eccetera? Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo, il concetto poi è sempre quello. Siamo partiti con i dati di tipo nautico. I dati di tipo nautico che ci servivano sono una settantina. Dopodiché abbiamo applicato la stessa architettura, quindi raccolta dati, trasferimento via satellite di dati semplici a terra. Pensi che noi stiamo raccogliendo i dati di posizione ogni secondo. Altri dati sono raccolti con frequenze inferiori, ma arriviamo ad avere qualche milione di record al giorno per ogni nave. Quindi questo è uno dei motivi, ad esempio, che ci ha portato a scegliere una soluzione big data in cloud, proprio per poter soddisfare questa esigenza di spazio. Non è l'unica, ma è una delle motivazioni. Questo progetto, questa piattaforma è nata in Italia, all'interno di Costa, che però fa parte di un gruppo americano. Uno potrebbe pensare che un grande gruppo del genere, visto che tra l'altro usate anche tecnologia Microsoft, uno potrebbe dire, questi dagli Stati Uniti importano o esportano tecnologia qui. Invece siete stati voi a suggerire al gruppo. Assolutamente sì, in questo caso sì, e ne sono abbastanza orgoglioso, perché abbiamo realizzato questa piattaforma che ha avuto una roadmap di crescita abbastanza consistente in termini di funzionalità. E devo dire che inizialmente non era stata considerata, proprio perché appunto gli americani avrebbero forse preferito qualcosa fatto da loro. Però devo dire che una volta che hanno visto la soluzione, l'hanno provata, l'hanno vista funzionante sulle nostre navi, non hanno avuto dubbi e quindi ci hanno chiesto di installarla anche su tutte le navi della flotta Carnival. Senta, che tipo di supporto potete dare alla nave? Cioè, con tutte queste informazioni, che tipo di elaborazione riuscite a fare, visto che si parla di big data? Beh, ci sono, il supporto alla navigazione in ambito safety, quindi in ambito proprio navigazione, qualsiasi tipo di problematica può avere la nave, il centro la supporta. In più, chiaramente, ci sono tutti gli aspetti di tipo di efficienza, quindi l'obiettivo è determinare delle best practices in modo che si possono definire quali sono le modalità migliori per operare, ad esempio anche la possibilità di, considerando condizioni meteorologiche, di cambiare itinerari in certi periodi dell'anno, ad esempio. Queste cose prima come si facevano? Beh, le cose sono sempre fatte, magari basate più sull'esperienza piuttosto che su dati strutturati come stiamo raccogliendo oggi. Indubbiamente i dati sono un patrimonio molto importante di un'azienda e quindi l'azienda deve essere capace di raccoglierli, analizzarli e sfruttarli per quello che servono. Una parte interessante di questo progetto, e lo abbiamo sottolineato, sono i dati in tempo reale, cosa che prima non avveniva e non avviene per molte flotte navali in giro per il mondo. E da quello che ho capito la regolamentazione è molto lenta, si potrebbero fare cose tecnologicamente molto più avanzate, ma le regole non impongono a sufficienza sia nel settore aereo sia nel settore nautico, ma anche nel settore terrestre. Si è molto lenti, e pensate a tutto il tema della guida autonoma. Oramai gli aeroplani potrebbero tranquillamente decollare o atterrare in completa autonomia, e anzi non ci sarebbero gli incidenti. Idem per le navi, se tutto fosse affidato alle macchine. Ma ci sono vari motivi, sia perché tutto ciò ovviamente ha dei costi, ma poi c'è anche tutto un problema psicologico. Probabilmente molti non si fiderebbero ad andare su una nave o su un aereo dove non c'è il pilota o il capitano, anche se poi sappiamo benissimo che le macchine non dico che non sbagliano mai, ma comunque sbagliano sicuramente meno degli uomini. Io sono un appassionato di Indagine ad Alta Quota, che è un programma del National Geographic molto interessante, fatto molto bene, che riguarda gli incidenti aerei, e nel 99% dei casi chi sbaglia sono le persone alla guida o quelli che fanno manutenzione. Arriveremo anche a far fare la manutenzione alle macchine. Poi il tema è cosa faranno gli uomini, e questo è un grande tema di dibattito. Io sostengo che ci saranno fra 10-15 anni, ma già qualcosa lo cominciamo a vedere oggi, molti problemi, perché le macchine gradualmente sostituiranno gli uomini in molte attività, anche quelle creative, anche quelle dove bisogna usare il cervello, e gli uomini hanno dimostrato che purtroppo in alcuni casi sono molto bravi a utilizzare il cervello, ci sono dei geni e degli scienziati assoluti, ma in molti altri casi, nei lavori di tutti i giorni, a volte spengono il cervello e le macchine invece non lo spengono mai. Questo è un tema di cui abbiamo parlato e sicuramente torneremo a parlare. Tornando al progetto che è stato presentato durante il Microsoft Forum da Costa Crociere, un altro elemento molto importante che riguarda la raccolta dei dati e l'analisi dei dati, di grandi quantità di dati, è la possibilità di fare analisi dopo un po' di tempo e anche dopo migliaia di miglia marine. Uno va a fare un'analisi e magari scopre che correggendo di un poco la rotta o facendo altre modifiche, beh, si possono risparmiare migliaia di litri di carburante. Pensate al consumo di una nave, insomma, cose di questo genere, e tecnologie di questo tipo permettono di fare queste analisi e anche eventualmente questi risparmi. Ma non ci sono solo risparmi, ci sono anche ottimizzazioni di altro genere, ad esempio quella della manutenzione, abbiamo sentito fa meccanica. Tutto molto interessante, noi chiudiamo questa puntata di 2024. Ringraziando tutti i nostri ascoltatori, voi che ci avete ascoltato, che mi avete ascoltato, visto che sono qui da solo nello studio di Radio 24, tutti i nostri ospiti, grazie a chi ci scrive ogni settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Twitter e Facebook. Noi ci risentiamo la prossima settimana, non dimenticate i nostri appuntamenti su Radio 24 nel nostro palinsesto, ovvero il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30, la mini replica domenicale e, come sempre, ovviamente il podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Fateci pubblicità, ognuno si prenda come impegno quello di fare ascoltare 2024 a un proprio collega di lavoro, a un proprio amico, magari a un politico, così poi ci sono anche dei politici molto bravi, molto competenti, ovviamente, però tecnologicamente parlando c'è una percentuale piuttosto bassa, e quindi una pubblicità per 2024 in quell'ambito, in quel campo, è sicuramente utile e importante. Ci risentiamo la prossima settimana.